Quando cammino per la strada vedo troppe facce tristi, poveri cristi, e dimmi se li vedi pure li tu. Li vedo pure io, sti fantasmi bianchi, vanno in giro in branchi, ma è stanchi, sono tanti e vanno avanti, si nutrono di avanzi di ciò che io rifiuto. Cannibali, occhi neri e cranio vuoto, ho la mente sotto assedio di pensieri strani, come mostri in cerca di qualcuno che li ami. Purtroppo però non posso farli fuori con pallottole d'argento quando grido muori. La linea di confine non esiste più, il tempo è già finito, sei solo tu. Pensa a te stesso, guarda più su, traduci in segnali per la tua tribù. La linea di confine non esiste più, il tempo è già finito, sei solo tu. Pensa a te stesso, guarda più su, traduci in segnali per la tua tribù. Il tempo, terzo millennio, previsioni nella nuova era. Come mi metto quando vivo alla giornata in mezzo a maschere di cera. Ora ho imparato che è impossibile contare solo su se stessi. E se fossi alla ricerca di una cura ti consiglio, taglia le radici della tua paura. Roba strana questa guerra fratricida, attenti a chi attacca, allenta sempre la difesa. Vivo nell'attesa mentre sto fermo davanti a un altro inferno. Non c'è parola che possa avere un senso, sento che il mio corpo si è spento. Per quanto mi sforzi di capire, io non comprendo a che gioco stanno giocando in questo tempo. Hanno un copione che è già scritto o è tutto incerto? Nella mia vita io ho notato che niente accade mai per caso, il confine una volta per sempre attraversato. La linea di confine non esiste più, il tempo è già finito, sei solo tu. Pensa a te stesso, guarda più su, traduci in segnali per la tua tribù. La linea di confine non esiste più, il tempo è già finito, sei solo tu. Pensa a te stesso, guarda più su, traduci in segnali per la tua tribù. Rimango vivo, resisto un altro sclero, io c'ero e se c'ero non dormivo, e ora te lo scrivo. Capitolo secondo, un altro aspetto del mio mondo, è necessario aggiungere pagine al diario. Da troppo costa fissa quasi svario, anni che ho visto passare sulla mia pelle, pesare sulle spalle, non sono stanco, sarò franco, rilancio al banco. Situazione paradossale, ecco la realtà con gli occhi di una mente criminale. Quasi vengo meno, mi sento alieno, la rabbia diventa veleno nel mio sangue, fuori dalla tomba, pronti a sconfiggere la nostra ombra. Rifletto più o meno vivo, combatto il virus delle facce stanche. Che palle, contento tu, contenti tutti, e mentre sfotti produco nello studio, aspetto i frutti.